Maria Pompei. Gentilissimi ascoltatori di Radio San Giuseppe, Ave Maria a tutti e ben ritrovati sulle frequenze di questa nostra amata radio che, come sappiamo, è dedicata al castissimo sposo della Beata Vergine Maria e quindi anche alla diffusione del culto di questo grande e non troppo conosciuto santo. Ecco, e a questo proposito, proprio da questa sera e cominceremo un ciclo di meditazioni che presumo ci accompagnerà abbastanza a lungo, che sono proprio dedicate all'approfondimento di questa figura, una figura abbastanza per certi aspetti misteriosa, perché noi sappiamo che nella Sacra Scrittura la Madonna parla poco e quindi quello che possiamo conoscere di lei, dei testi biblici, almeno direttamente, è poco, ma San Giuseppe non parla proprio per niente, quindi non abbiamo di lui, che nel Nuovo Testamento pochissimi racconti che più che altro testimoniano alcune cose che San Giuseppe ha fatto, ma proprio di lui ne abbiamo neanche una parola. Quindi, come vedremo, il più grande santo di tutti dopo la Madonna è anche colui che nella mente e forse nel cuore anche di tanti fedeli, fermo restando, spero, un doveroso culto di idolia che gli si deve dare appunto in quanto padre operativo di Gesù, tutti lo sappiamo, e castissimo sposo di Maria Santissima, però chi è quest'uomo santo? Qual è la sua funzione? Cosa fa? Qual è il bene che può recare a tutti noi, non sempre è molto chiaro nelle menti dei fedeli. Noi dobbiamo fare estrema attenzione a dare il giusto e risalto e la giusta importanza al culto dei santi. Devo dire, diciamo, queste piccole note introduttorie. Non certamente perché i santi si sostituiscono a nostro Signore, o devono in qualche modo entrare in concorrenza, o devono essere maldestramente posti sullo stesso livello di nostro Signore Gesù Cristo. Però, per volontà di Dio, per il mistero anche mai sufficientemente esplorato della comunione dei santi, Dio vuole che alcuni benefici ridondino su di noi attraverso l'intercessione dei santi, e del resto ci propone anche questi esempi straordinari di eroismo nella pratica della virtù che devono da noi essere conosciuti per poter essere imitati, tenendo presente che con i santi, tra virgolette, passatemi questa espressione, comuni, se di santo comune si può parlare, perché tutti i santi in realtà sono delle persone assolutamente straordinarie, però condividono con noi il medesimo punto di partenza, e sono tutti quanti figli di Adamo e quindi tutti, come dire, in un certo senso infettati da questo virus malvagio che purtroppo ci accompagna dalla nascita alla morte, e che è appunto la ferita della macchia di origine, che ci complica non poco la nostra vita interiore, perché nonostante le nostre migliori spinte verso il bene o verso l'alto, siamo inesorabilmente, spesso e volentieri, ahimè, trascinati verso il basso. E questo chiaramente comporta una difficoltà, magari talvolta anche qualche scoraggiamento, o qualche pensiero di desistere da questo arduo impegno. Si pensi al Vangelo che abbiamo ascoltato ieri, no? Nessuno che ha messo mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Gesù ammonisce da questa tentazione del tornare indietro appunto per difficoltà che si incontrano. Ora, questi nostri fratelli, queste nostre sorelle erano come noi, per cui, oltre che per i benefici che ridondano a noi dai santi, e dobbiamo sapere, come si dice in un'espressione comune, a che santo votarci, non sa che santo votarsi, dobbiamo sapere a che santo votarci. Io racconto sempre, non so se l'ho già fatto su Radio San Giuseppe, il caso di Sant'Antonio, che pochissimi per esempio sanno che tra le tante cose che Sant'Antonio fa ce n'è anche una, come dire, terra, che io l'ho imparata da tanti anni fa, e la prima volta che ho sentito questa cosa ho fatto il solito sorrisino di compatimento, nel pensare, dico, ancora andiamo appresso a queste cose, stiamo nel 2000, perché purtroppo, gentilissimi ascoltatori, io penso che, salvo qualche eccezione che c'è tuttora, tutti noi paghiamo un pochino lo scotto di questo nostro mondo un po' senza Dio, un po' razionalista, positivista e modernista. Insomma, una persona tanti anni fa mi disse che praticamente quando ti perdi qualcosa, se vuoi ritrovarla, devi dire 13 di gloria al Padre a Sant'Antonio. Guardate, io l'ultima in ordine di tempo ce l'ho fresca, che risale a qualche giorno fa. Dovevo partecipare a un pellegrinaggio notturno che si fa da queste parti alle Ferriere, perché dove c'è la casa del martirio di Santa Maria Goretti, la cui festa ricorre sabato prossimo, chiaramente essendo patrona di Latina e dell'Agro Pontino, dalle nostre parti è una grande solennità. E insomma, che succede? Che proprio poco prima di dover uscire di casa mi perdo due cose, una cosa di poco valore e un'altra cosa abbastanza importante, no? Perché era un po' più importante, adesso non ha importanza di dire che cosa fosse. E siccome ci avevo sciaguratamente fretta, anziché ricordarmi, dico, fammi dire 13 gloria al Padre di Sant'Antonio, mi sono innervosito non poco, perché sapevo che c'erano persone che mi stavano aspettando, e una di queste due cose era abbastanza delicata, dico, possibile che mi sono perso adesso, questo complica un sacco la vita. Niente, non c'è stato perso. Quando sono tornato molto tardi, alle 6 della mattina, dico, fammi un po' di questi 13 gloria al Padre a Sant'Antonio. Allora, quella cosa di nessun valore l'ho trovata immediatamente, subito. E invece quell'altra cosa non l'ho trovata, e adesso ho imparato dall'esperienza che quando questo qualcosa non lo trovi, vuol dire che non sta in una in una dimensione accessibile, cioè probabilmente l'ho persa senza accorgermene, chissà dove in giro. È ovvio che se volesse Sant'Antonio te la potrebbe anche far volare, far ritrovare a casa, però ordinariamente questo non lo fa. Però spesso e volentieri, guardate, l'ho testata tantissime volte, o per esempio invocare l'angelo custode quando si entra in macchina perché ci protegga, oppure guardate, questo lo fa in maniera infallibile. Io vi posso dire, adesso voi potrete dire, quel Leonardo è un credulone, va presa a queste cose. Negli ultimi 4-5 anni, l'unica volta che sono salito in macchina senza invocare l'angelo custode, lo faccio sempre, ormai ho preso l'abitudine, ho fatto un incidente. Vorrei dire, casualità. Va bene, facciamo finta che sia una casualità. Non è che tutti quelli che non invocano l'angelo custode ogni volta che salgono in macchina fanno un incidente. Però io seppi tanto tempo fa, leggendo un libro di qualche esorcista, adesso non mi ricordo cosa, che i demoni avrebbero spifferato durante qualche esorcismo che loro sono la causa di tutti quanti gli incidenti stradali, e che il 90, una cifra spaventosa, l'80-90% degli incidenti stradali sarebbero evitati se tutti quelli che entrano in macchina invocassero l'angelo custode. Non è cosa mia, io ci ho creduto a questa cosa, e si vede che l'angelo custode ci tiene così tanto a questa invocazione, che per una volta che l'ho fatto, non è stato un incidente grave, solo un danno economico, insomma una sciocchezza, però tanto l'ho fatto, l'unica volta che non l'avevo invocato. Quindi l'approfondimento, questo per dire, della figura di San Giuseppe, che è tra l'altro invocato come protettore della Chiesa, forse avremo tempo durante questo ciclo di catechesi, esistono anche le litanie per esempio di San Giuseppe, no? Dove ci sono dei titoli comuni e simili a quelli con cui è venerata la sua sposa, e invece sono anche dei titoli, diciamo, esclusivi, o se non proprio esclusivi, attribuiti a San Giuseppe un po' per antonomasia, per esempio, quello di terrore dei demoni e quello di protettore della Chiesa, con una funzione che sotto questi aspetti e per certi aspetti avvicina San Giuseppe alla grandiosa figura di San Michele Arcangelo, con la differenza che mentre San Michele Arcangelo è capo dell'esercito celeste, scusate, San Giuseppe è il protettore della Chiesa militante. Certo, anche San Michele viene un aiuto della Chiesa militante, no? Però San Giuseppe viene un nostro aiuto da uomo, che anche San Michele è un puro spirito, quindi è un angelo. Quindi certamente anche gli angeli hanno avuto una prova, adesso chiaramente non è il caso di approfondire in questa sede, in questo discorso, però una volta superata la prova sono confermati in grazia, quindi sono puri spiriti, assolutamente impeccabili, e sono comunque puri spiriti, non soggetti alla nostra debolezza. San Giuseppe invece no, San Giuseppe è soggetto come alla nostra debolezza. Ecco, quindi è fondamentale l'approfondimento di questa figura. Allora, per aiutarci un po', è stato scritto qualche tempo fa, per la verità, almeno per quanto riguarda la copia che ho io, è un libro relativamente recente, finito di stampare nel mese di ottobre del 2008, scritto da Ángel Peña, che è un autore noto, insomma, nel campo della teologia spirituale, è un autore in gamba, quindi che non scrive sciocchezze o cose poco sensate, è un autore di elevata qualità, che ha scritto un testo che dà appunto il titolo a questo ciclo di catechesi, come abbiamo sentito durante l'introduzione dire da Antonio, che è appunto San Giuseppe, il più santo dei santi, e che ci aiuterà piano piano ad approfondire la figura di San Giuseppe. Come sempre, cominciando, perché noi sempre da lì cominciamo, e lo faremo questa sera, da un rapido excursus biblico. Non lo finiremo questa sera, stasera vedremo alcune figure, alcuni prodromi dell'Antico Testamento, nel senso che se uno fa attenzione, alcune cose nella Sacra Scrittura, in forma magari non chiara, non immediata, non autoevidente, ma magari un pochino velata, un pochino nascosta, si possono individuare. E lo faremo. Perché San Giuseppe, come tutti i santi, poi essendo che era tra l'altro un personaggio di primo spicco, insomma, all'inizio proprio del Nuovo Testamento, è ovvio che deve essere anzitutto biblicamente collocato. Poi ci sarà una parte un pochino storica, e poi, come dire, una parte un po', come dire, magisteriale, quindi soprattutto i pensieri di alcuni papi su San Giuseppe e di alcuni santi su San Giuseppe e alcuni santuari dedicati a San Giuseppe. Ecco, e infine ci sarà, diciamo, una parte dedicata un pochino ad alcune pratiche devozionali nei confronti di San Giuseppe, che sono il culto dei dolori e delle gioie di San Giuseppe. E poi, ecco, alcune preghiere a San Giuseppe e un escurso sulle litanie, come vi accennavo, che sono molto utili a capire qualcosa di questa straordinaria fiducia e di questa straordinaria, scusate, figura. Invochiamo subito l'invocazione e la protezione di San Giuseppe su questo ciclo di incontri, anche su questo povero peccatore che vorrà balbettare qualcosa, si spera, di sensato su questa straordinaria figura. Io ancora a titolo introduttorio premetto subito che tra le tante cose che vedremo di San Giuseppe, a mio avviso la riscoperta di questa figura è quanto mai importante ed attuale, almeno, guardate, sotto tre punti di vista, di strettissima attualità. Uno, una certa, come dire, Gli uomini ordinariamente considerano, almeno qui in Occidente, cosa assolutamente assurda, la religione e la vita di chiesa come cosa da donna. L'esperienza, insomma, un parroco lo sa benissimo. Quindi la cura dell'educazione religiosa da tutti i punti di vista, compreso la messa domenicale, l'iscrizione al catechismo, accompagnare in chiesa, è riservata alle donne. Vedremo come San Giuseppe, tra le altre cose, è stato, come tra l'altro un buon ebreo, esemplare nel suo nella virtù della santa religione, cioè in tutto ciò che attiene al culto di Dio, alla vita di fede, all'obbedienza, all'osservanza liturgica, cultuale e morale dei precetti di Dio. Questa, secondo me, è una ed è tanto più importante in quanto San Giuseppe, a differenza di alcuni santi, cioè la maggioranza purtroppo dei santi almeno conosciuti, specialmente di sesso maschile, salvo qualche figura che è apparsa soprattutto nel XX secolo, comunque c'è sempre stata, però molti sono magari frati, monaci, padri del deserto, papi, vescovi, cardinali, sacerdoti. Allora uno potrebbe dire, la santità. No, San Giuseppe ha vissuto sotto questi punti di vista una vita assolutamente comune, quindi è stato un lavoratore, un artigiano, vissuto in famiglia, quindi aveva una famiglia, quindi aveva una sposa, certamente ha vissuto queste cose, lo vedremo, in maniera speciale, perché San Giuseppe io lo definirei il santo che è un santo normale, ma nella normalità è assolutamente speciale. E quindi è un santo che nella ordinarietà della vita in cui è apparentemente vissuto ha compiuto un percorso assolutamente straordinario di santificazione. Quindi c'è queste grandi e belle caratteristiche. Seconda cosa, l'importanza della figura dell'uomo dentro la famiglia, che, sotto due aspetti. Primo, quello di sposo e di capo famiglia. E secondo, quello di padre, quindi sono tre, no? La religiosità maschile, diciamo così, l'importanza della figura dello sposo come capo famiglia e l'importanza del padre. Tutti e tre questi aspetti, io chiedo perdono agli uomini che mi stanno ascoltando, ma per quanto è la mia conoscenza e la mia esperienza, a volte latitano tutte e tre, a volte latitano due su tre, a volte latita uno su tre. Trovarli tutti e tre in qualche maschietto contemporaneo, io non vorrei sembrare pessimista, ma non è cosa molto frequente. Oggi, per esempio, anche un po' in parte come conseguenza delle rivendicazioni a volte un po' invadenti, diciamo così, di certo mondo femminista, l'uomo ha abdicato spesso e volentieri, se per amore o per forza, questo poi lo si può discutere, però al suo ruolo di uomo, quindi di marito e quindi di capo famiglia. Io questo lo ho constato. Non parliamo poi del ruolo, ahimè, di padre, con tutto ciò che questo termine comporta, quindi di padre come figura autorevole, non autoritaria, autorevole, vuol dire che a partire dalla dedizione, dall'amore, dal sacrificio e dalla donazione che lui fa alla sposa e ai figli e dall'esempio di vita integerrima che dà, diventa punto di riferimento dei valori familiari ed anche loro custode, nel senso che in caso di indebite trasgressioni che non si riesce a correggere con le armi principali dell'amore e della dolcezza, l'uomo sa, può e deve in alcune circostanze intervenire autorevolmente. E anche questo mi sembra di vederlo in più di qualche circostanza un po' latitante. Ora, invocando di nuovo, almeno mentalmente, vi invito a farlo tutti quanti coloro che sono in ascolto, San Giuseppe, apriamo quindi la nostra riflessione. Allora, per quanto riguarda la Sacra Scrittura, i testi applicabili a San Giuseppe, specialmente nell'Antico Testamento, sono da andare a ricercare con il lanternino. Nel Nuovo sono pochi, e come abbiamo già accennato, sono pochi e sono semplicemente racconti, episodi, che mostrano molto tra le righe, anche se in maniera alquanto eloquente, chi San Giuseppe era. Senza però che possiamo conoscere dalla sua voce, dalla sua bocca, qualcosa di lui. Per quanto riguarda l'Antico Testamento, alcune figure, cioè diciamo più che di testi, come vedremo, c'è qualcosa. San Giuseppe lo si trova presente in alcune figure bibliche che in qualche modo lo anticipano. Cos'è questo tipo di procedimento? Vedete, io ci ho fatto la tesi dottorale su questo argomento. Questo procedimento si chiama procedimento tipologico, cioè che consiste nel andare a cercare alla luce di quello che noi conosciamo nella nuova ed eterna alleanza, cioè nel Nuovo Testamento, cosa nell'Antico Testamento in qualche modo prefigurava in maniera vera, anche se imperfetta, un certo personaggio, un certo fatto, una certa figura del Nuovo. Vedremo che in San Giuseppe c'è esempio. Da chi era prefigurato Gesù? Alcune cose se le attribuite lui stesso, no? Quando ha citato il Salmo 110, dove Davide misteriosamente dice: il Signore ha giurato e non si pente, tu sei sacerdote per sempre al modo di Melchisedec. Gesù cita, non c'è una discussione, il Salmo 110, e in una lettera agli ebrei si trova proprio un accostamento esplicito tra il sacerdozio di Cristo e il sacerdozio di Melchisedec. Oppure, altro accostamento tipico della teologia paolina, l'agnello pasquale. L'agnello pasquale dell'Antico Testamento, che veniva immolato e del cui sangue si tingevano gli stipiti delle porte degli ebrei la notte di Pasqua, di chi era figura? Di Cristo. La roccia che durante l'Esodo vide compiersi il miracolo dell'effusione dell'acqua. Sempre San Paolo nelle sue lettere dice che quegli ebrei bevevano di una roccia spirituale e quella roccia era Cristo. Ancora, Isacco che porta la legna per il sacrificio sopra il Monte Moria condotto dal padre Abramo. È ovvio qui, no? I padri della Chiesa quando commentano dicono il padre Abramo portò il figlio con la legna sulle spalle, no? Nel Monte del Sacrificio. E poi Dio risparmiò Isacco, vista la sua fede, dando una dieta. Invece Dio Padre, che ha condotto il figlio attraverso la sua volontà sul monte del Golgota, non lo ha risparmiato, ma lo ha sacrificato per il bene di tutti. Quindi Isacco era figura di Cristo. Ancora, Giuseppe, che vedremo essere figura di San Giuseppe del Nuovo Testamento, Giuseppe è uno dei figli di Giacobbe, che a un certo punto viene venduto dai fratelli e viene venduto agli egiziani. Allora, che cosa il grande venditore di Sardi, quando scrive la Maria Pasquale, c'è che Gesù, che è stato venduto per 30 denari da Giuda, quindi l'episodio della vendita dei fratelli di sangue, d'accordo, di Giuseppe agli egiziani, era la figura del tradimento di Giuda, che avrebbe poi tradito Gesù per 30 denari, eccetera, eccetera, eccetera. Questo per farvi capire un attimo il contesto prima di andare poi a vedere queste cose, no? Allora, in base all'autore che stiamo seguendo, che ovviamente scrive sulla base, sulla scorta delle testimonianze della tradizione della Chiesa, degli autori spirituali, la prima figura biblica in cui si può scorgere un prodromo o un qualche elemento che prefigura la santità di San Giuseppe è Noè. Cosa ha fatto Noè? Noè, dopo aver costruito l'arca e condotto tutte quante le singole specie degli animali nell'arca per scampare dal diluvio, quando terminò il diluvio, ricevette nell'arca la colomba portatrice di un ramo di ulivo che annunciava la fine del diluvio e la salvezza degli uomini. Ma chi è la mistica colomba che San Giuseppe ha accolto? È Maria Santissima. E cosa aveva questa mistica colomba? Non già un semplice ramoscello di ulivo in bocca, ma aveva colei che avrebbe portato al mondo la salvezza proprio tutta intera attraverso la redenzione, il grembo, e che era nostro Signore Gesù Cristo. È un primo, vedete, accostamento possibile. Tenete presente che questo procedimento di cui sto parlando, cioè il procedimento tipologico, è assolutamente impossibile farlo a partire, cioè dall'indietro verso l'avanti. Si può fare soltanto il contrario, cioè nessuno ai tempi di Noè, guardando Noè, poteva prevedere che attraverso una colomba con un ramoscello in mano ci si sarebbe avuto poi una relazione tipologica con San Giuseppe e la mistica colomba che è la Madonna, a portatrice di colui che porta la pace nel mondo attraverso la redenzione che è Gesù Cristo. Quindi il procedimento tipologico parte sempre dal compimento per andare a vedere a ritroso la figura che in qualche modo lo prefigura. Scusatemi questa ulteriore puntualizzazione. Un'altra figura su cui spendere qualche parola in più, questo è molto importante, invito tutti quanti gli ascoltatori, io in parrocchia questo cerco di farlo, anche per tutti quanti i fedeli, e ci sono già in giro anche, per esempio quest'anno abbiamo fatto le lettere di San Paolo, gli anni precedenti, altre cose si trovano comunque sul sito della parrocchia. Io raccomando a tutti i miei fedeli, sulla scia della raccomandazione della Chiesa, una fra tutte la frase di San Girolamo, l'ignoranza delle scritture, l'ignoranza di Cristo, di leggere la Bibbia e di familiarizzarsi, di imparare a leggere la Bibbia e di imparare anche a meditare sulla Bibbia e con la Bibbia. Un'altra figura rappresentativa di San Giuseppe, tipologica di San Giuseppe, è Mardocheo. Chi è questo Mardocheo? Questo Mardocheo è un personaggio che compare nel libro di Ester, una storia molto avvincente, quella di Ester, che tra l'altro Ester è una prefigurazione della Madonna, però non entriamo adesso perché ci interessa San Giuseppe. Allora, che succede? Brevissimamente la storia di Ester. Allora, ci troviamo ai tempi della deportazione assira. Sapete che ci sono state due deportazioni del popolo di Israele, una da parte degli assiri e una da parte molto più massiccia dei babilonesi quando distrussero il Tempio nel 586 a.C. Durante questa deportazione assira c'era questo Mardocheo, che era un pio ebreo, che si trovava appunto nel luogo di deportazione insieme alla nipote Ester. E a un certo punto il re Assiro Assuero, così si chiamava, si rifà un pochettino il parco harem, diciamo così, e chiede che siano censite tutte quante le giovanette donne del suo territorio, ci mandano anche Ester, che non sapevano che fosse un'ebrea, e il re accoglie anche Ester e si, come dire, si innamora particolarmente di questa bella fanciulla. Mardocheo manda a chiamare Ester e gli dice: guarda che non è un caso che il nostro Signore ti mette a fianco del re della nazione che ci opprime, tanto più che questo re aveva un ministro, un suo nuovo tenente principale, di nome Aman, che odiava il popolo giudaico perché il popolo giudaico rifiutava di sottomettersi ad alcune forme idolatriche, scusate, di culto del re dell'Assiria. E quindi questo riesce ad ottenere dal re la firma di un decreto di sterminio del popolo ebraico. Mardocheo manda a maggior ragione a chiamare Ester dicendo: guarda che non ti dimenticare del tuo popolo adesso, non fare che tu ti trovi nella reggia tranquilla e serena e ci lasci tutti quanti morire ammazzati, cerca di fare qualcosa. E siccome c'era però una legge che nessuno poteva andare davanti al re senza che lui lo chiamasse, per Esther fare questa cosa voleva dire rischiare di essere ucciso. Quindi comincia a fare una lunghissima preghiera, seguita da lunghissimi digiuni, insomma alla fine, sto stringendo parecchio, riesce ad andare a questo banchetto con il re e riesce poi a denunciare e far uccidere Aman. E Mardocheo, al termine della storia, viene, diciamo così, assunto dal re ad una delle maggiori cariche più prestigiose del suo stato, salvezza del popolo ebraico. Questa è la storia di Mardocheo, no? E ora Mardocheo ricevette un sogno da Dio e vide una fontanella, tra le altre cose, che si trasformava in un fiume di grandi acque e comparve una lucetta che si trasformò in sole. Questo episodio avviene abbastanza avanti nel libro di Esther, quando ancora la situazione era un po' critica, no? Ora, questa piccola sorgente trasformata appunto in grande fiume e la luce diventata sole, nel sogno di Mardocheo, erano Esther, che il re prese come sposa rendendo la regina. Quindi fontanella che si trasforma in fiume di grandi acque e lucetta che si trasforma in sole, quindi una povera donna ebrea che diventa la sposa del grande re Assiro. Ecco. E chiaramente questa regina Esther, con tutta quanta la sua opera di intercessione, è innalzata da Dio ad un rango altissimo. Ella è la sposa del re dei re, quindi la regina dell'universo. Quindi Maria Santissima è rappresentata da Esther. E Mardocheo, che al termine della storia arriva ad essere il primo dopo il re, cioè il vice re, può essere accostato a San Giuseppe. Perché? Perché eccettuata Maria Santissima, appunto la regina universale, la sposa del re, chi è il più santo di tutti dopo il re, quindi in un certo senso il vice re, e dopo Maria la regina? È San Giuseppe. Quindi c'è questo ulteriore accostamento, ancora vedete possibile. Ancora, la figura, diciamo, fortemente più vicina, diciamo, a San Giuseppe nell'Antico Testamento è il suo omonimo Giuseppe, come vi ho accennato, figlio di Giacobbe, che anche lui, dopo una vicenda sciagurata, quindi la vendita da parte dei suoi fratelli per invidia, finisce la sua storia in gloria, perché diventa vice re d'Egitto. E attenzione che paradossalmente sarà lui la causa di salvezza di quegli stessi fratelli che lo avevano venduto, perché quando arriverà una grande carestia, gli ebrei dovettero scendere in Egitto per chiedere il pane, e pensate che i fratelli si trovarono dinanzi, chi? Giuseppe, che li riconobbe lui a loro, mentre loro non lo riconobbero lui, lui non si fece riconoscere subito. Ecco, c'è un testo famoso nella Genesi 41-55: andate da Giuseppe e fate ciò che lui vi dirà. Quindi in tempi di fame il faraone mandava gli egiziani da Giuseppe affinché questi distribuissero loro il grano accumulato nei tempi dell'abbondanza, appunto dicendo loro andare da Giuseppe. E come Giuseppe fu vice re dell'Egitto, cioè il più importante del regno dopo il faraone, così Giuseppe è vice re della Chiesa, cioè il santo più importante di tutti. E come Giuseppe distribuì il pane materiale per sfamare le persone in tempo di carestia, così San Giuseppe è stato il nutrizio, quindi colui che ha allevato, educato e permesso che fosse introdotto nel mondo in maniera ordinata e giungesse alla statura adulta, colui che si è autodefinito il pane vivo disceso dal cielo, per sfamare la fame profonda, importante, di quella materiale e quella spirituale, di tutte quante le anime. Vi cito che è molto interessante notare qui quello che scrive San Bernardo, lo cito testualmente, e dice anzitutto che Giuseppe, in quanto venduto per invidia da suo fratello e portato in Egitto, prefigurò la vendita di Cristo. Vedete come questa cosa che vi accennavo prima è assolutamente pacifica nella tradizione della Chiesa. San Bernardo, tenete presente che è vissuto nel Medioevo, quindi dal 1090 al 1153 d.C. Ora, questo Giuseppe, fuggendo da Erode, portò Cristo nella terra d'Egitto. Attenzione, San Giuseppe, a un certo punto, cosa si dicono i Vangeli? In sogno riceve, lo vedremo poi più profondamente nei prossimi incontri, ma riceve dall'angelo l'annunzio che Erode vuole uccidere il bambino. Cosa fa? Prende il bambino e fugge in Egitto. Ma anche San Giuseppe, anche Giuseppe dell'Antico Testamento, sia pure in maniera un po' più rocambolesca, è passato dalla terra di Israele all'Egitto. Il Giuseppe dell'Antico Testamento, dobbiamo sapere che c'è un episodio in cui viene tentato di adulterio da una donna cattiva che lo induce in tentazione per farlo peccare. Lui resiste, quindi in questa resistenza c'è una prefigurazione della castità di Giuseppe. San Bernardo commenta che l'antico Giuseppe, mantenendosi fedele al suo signore, non volle acconsentire alla cattiva intenzione della sua signora, perché questa era la moglie del suo superiore. Questi, riconoscendo vergine la sua signora, quindi è San Giuseppe del Nuovo, la custodì fedelissimamente, conservando se stesso in castità. Ora, oltre a San Bernardo, c'è anche un grande papa, il Beato Pio IX, che quando l'8 dicembre del 1870, data non casuale, quindi 6 anni dopo l'Immacolata Concezione, proclamò San Giuseppe patrono della Chiesa Universale, quindi protettore e patrono della Chiesa Universale, disse queste parole: in modo simile a come Dio mise a capo di tutta la terra d'Egitto quel Giuseppe, figlio del patriarca Giacobbe, affinché magazzinasse frumento per il popolo, così all'arrivo della pienezza dei tempi, quando stava per mandare sulla terra il suo figlio unigenito come salvatore del mondo, scelse un altro Giuseppe, del quale il primo era stato tipo e figura, vedete i termini tecnici che vi accennavo, che rese padrone e capo della sua casa, non soltanto dell'Egitto, ma padrone e capo della sua casa, cosa prefigurata tra l'altro nell'autorità che San Giuseppe ebbe sulla Madonna, che è, come dice il Concilio Vaticano II, tipo e modello della Chiesa. Quindi avere autorità sulla Madonna vuol dire avere autorità su ciò che la Madonna rappresenta, che è la Chiesa. E lo scelse come custode dei suoi principali tesori. Il successore del Beato Pio IX, che fu Leone XIII, anche in un'enciclica intitolata Quamquam Pluries, 15 agosto 1889, dice questo: è affermata l'opinione in non pochi padri della Chiesa, vedete, come vi accennavo, la tradizione, l'importanza della tradizione della Chiesa, e concorda su questo la Sacra Liturgia, aspetto molto, molto importante, perché sapete che c'era un antico adagio teologico che quando qualcosa viene affermata o celebrata nella Divina Liturgia, quella cosa diventa automaticamente norma di fede, perché ciò che viene fatto nella liturgia della Chiesa è sempre assolutamente vincolante dal punto di vista dogmatico. Questo è un principio generale, perdonatemi se ogni tanto faccio riferimento a degli aspetti un pochino tecnici, però sicuramente ci fa bene alla nostra formazione. Quindi, ripeto, è affermata l'opinione in non pochi padri della Chiesa, concordando su questo la Sacra Liturgia, che quell'antico Giuseppe, nato dal patriarca Giacobbe, aveva abbozzato la persona e i destini di questo nostro Giuseppe e aveva mostrato col suo splendore, raggiunto dopo la prova e l'umiliazione dell'essere venduto come schiavo, la grandezza del futuro custode della Sacra Famiglia. E anche un altro grande papa che istituì una festa, la festa di San Giuseppe Lavoratore, che purtroppo oggi, ahimè, forse tra le cose un pochino più, come dire, meno felici della riforma liturgica, secondo me ce ne stanno un paio, ce ne stanno, è stata la declassazione della festa di San Giuseppe Lavoratore, che il 1 maggio è passata a memoria facoltativa, prima era solennità la festa di San Giuseppe Lavoratore. Sarebbe opportuno, io penso, mi permetto insomma di esprimere questo piccolo rilievo con tutta l'umiltà e con tutta la coscienza, insomma, che sono persone più grandi di me che devono occuparsi di queste cose, però lasciare la festa del 1 maggio in mano a certe forze, insomma, che poi la strumentalizzano, non parliamo poi di quello che è successo quest'anno il 1 maggio, che tutti sappiamo, con i concerti blasfemi gravissimi che sono stati fatti, e tra l'altro poi lasciando in qualche modo, quella sarebbe un'occasione ottima anche di catechesi sulla grandezza di San Giuseppe, sulla santificazione del lavoro per un cristiano, sull'importanza del santificare il lavoro, del santificarsi nel lavoro, quindi non soltanto il lavoro in se stesso, diciamo come istituto, come dire, quasi esclusivamente laico, di cui ci si dovrebbe occupare soltanto da un punto di vista laico, quindi lasciando fuori la religione, assolutamente no. E l'altra cosa, oggi è il 1° di luglio, ahimè, anticamente io stamattina ho celebrato la messa, ogni tanto lo faccio, con estrema semplicità e con estrema tranquillità, la Santa Messa nel rito antico, il 1° luglio, sappiamo tutti quanti che il mese di luglio è dedicato al Preziosissimo Sangue, è la festa di prima classe, quindi una festa assolutamente importante. Per il sangue di Cristo. Noi abbiamo fatto le precedenti catechesi sul Sacro Cuore. Il Sacro Cuore è un po' il compendio della cristologia cattolica, ma la conoscenza della devozione al Preziosissimo Sangue è il compendio della soteriologia cattolica, cioè come ci ha salvati il nostro Signore? Il nostro Signore ci ha salvato versando il sangue. Per quanto questa cosa, lo dicevo questa sera durante la breve riflessione che ho fatto, di questa sera l'ho fatta, ho celebrato la messa votiva nel rito nuovo del Preziosissimo Sangue, cosa che è consentito comunque fare. Dico, fratelli, qui dobbiamo ogni tanto ricordarci che Gesù ci ha salvato al prezzo di tutto il suo sangue, punto. Quindi questo ci deve fare anche prendere coscienza, se dal lato dell'amore di Gesù, dal lato del costo che ha avuto la nostra redenzione, e anche della gravità e della serietà del peccato, l'uomo, perché per essere redenti Gesù doveva versare fino all'ultima goccia di sangue. Tu puoi capire perché, puoi non capire perché, puoi dirti ma come mai? Ma era proprio necessario tutto questo? La risposta è sì, e questo sì ci provoca, ci interroga. Quindi questo per dire che Pio XII, quando istituì la festa di San Giuseppe, applicò quelle parole della Genesi che abbiamo citato, del capitolo 41, andate da Giuseppe, e sarà lui a darvi il pane, a San Giuseppe. Quindi, cioè, San Giuseppe, sotto questo punto di vista, viene ad avere un ruolo, per certi aspetti, che lo accosta a quello della Madonna. Si vede che la ragion d'essere della Madonna e della grandezza della Madonna è il fatto che è Maria che ci dona Gesù. Certo, Maria lo fa a un titolo assolutamente speciale e straordinario, perché dal suo fiat che è dipesa l'incarnazione, e lei ha proprio dato la carne viva al Signore. Però San Giuseppe è entrato in questa storia, e c'è entrato non pro forma, come vedremo, c'è entrato con tutti i crismi, e quindi viene in certo modo attratto in questa funzione eminentemente mariana, che è quella di darci Gesù. E quindi se vogliamo crescere nella conoscenza di Gesù dobbiamo rivolgersi a Lui. Ecco, diciamo che questo è un pochino la sintesi veterotestamentaria su San Giuseppe. Io concludo citando gli ultimi versetti di questo primo paragrafo, diciamo, di questo testo, che mostrano altre citazioni sempre del libro della Genesi, riferente sia a Giuseppe dell'Antico Testamento, che alcuni autori vedono riferibili anche al San Giuseppe del Nuovo. Per esempio, germoglio di ceppo fecondo è Giuseppe, germoglio di ceppo presso una fonte. Quindi capite subito, no? La Madonna è chiamata fontana chiusa, fonte sigillata, giardino chiuso, scusate, fontana sigillata. Quindi ceppo fecondo Giuseppe, germoglio di ceppo fecondo presso una fonte. Chi è questa fonte? Maria. I cui rami si stendono sul muro. Poi il faraone disse ai ministri: potremmo trovare un uomo come questo in cui sia lo spirito di Dio? Figuriamoci. Il faraone d'Egitto dice questo di Giuseppe, e noi possiamo tranquillamente dire di San Giuseppe: potremmo trovare un uomo come questo dove c'è lo spirito di Dio. Ecco. E infine, dal momento che Dio ti ha manifestato tutto questo, nessuno è intelligente e saggio come te. Tu stesso sarai il mio maggiordomo e ai tuoi ordini si schiererà tutto il mio popolo. Solo per il trono io sarò più grande di te. Io mi fermerei qui. Sentiamo adesso Antonio se ha qualcosa